Io capisco subito se è un clone o se è lei. Buongiorno Carlotta. Buongiorno a tutti e a tutte ascoltatori e ascoltatrici. Buongiorno, è lei. Nessuno ha il mio accento, no, infatti. No, bene, sono ben contento di ritrovarti anche oggi puntualissima per la rubrica Regola d'Arte sui 103.1. A Bologna questa stagione è particolarmente ricca per quanto riguarda le esposizioni. Mi permetto di aggiungere anche incredibilmente per il buon gusto, ogni tanto zoppicante, ogni tanto ripetitiva. In questo caso invece spettacolare e ricercata. Abbiamo conosciuto nelle puntate precedenti Paresh, Revoluzia, l'esposizione a Palazzo Albergati e tantissime altre realtà che appaiono minori ma che minori non sono. Non sono, infatti. E quest'oggi? Quest'oggi invece ci aspetta Luigi Busi. Esattamente, artista da 1837-1884, scusate, in cui ritrova in questi anni l'eleganza del vero, come recita al titolo di presentazione in Sala d'Ercole a Palazzo da Curzio, dove una serie di esposizioni dedicate alla fine dell'Ottocento e inizio Novecento bolognese sono protagoniste da 14 edizioni. Cito le ultime: Mario De Maria, Giovanni Romagnoli, Protti, Carlo Corsi, insomma tutti artisti che per i grandi nomi sono così non proprio sul podio, ma che certamente non disdegnano o non sono inferiori a quelli che invece occupano posizioni più altisonanti. Ma non a caso, infatti, tra 800 e 900 Bologna ha visto un'attività abbastanza fiorente a livello appunto artistico. C'era una grandissima quantità di artisti a Bologna. Sì, quindi... questo grazie a un'istituzione importante di cui parleremo tra poco, grazie anche all'Associazione per le Arti di Bologna che si occupa di proporre e riproporre queste esposizioni in una sede importante come Palazzo da Curzio. Ma iniziamo al periodo più splendido che raccontano i libri di storia dell'arte per la nostra città, ma anche i libri di storia, appunto. Bologna, seconda città più importante dopo Roma per quanto riguarda lo stato pontificio tra il 500 e il 600, nella seconda metà del 500 vede la nascita di due nomi fondamentali per la storia dell'arte mondiale. Parlo dei fratelli Carracci e di Guido Reni. Saranno artisti per il tardo manierismo, maestri e autori di opere fondamentali, saranno nomi indimenticabili. Sono nomi che fra loro vedono anche un particolare incontro e scontro. Ricordo Cesare Malvasia, critico intellettuale dell'epoca, che diceva a Lodovico Carracci: stai attento ad insegnare a Guido Reni perché prima o poi disegnerà meglio di te. Così è andato, ogni tanto queste cose capitano, assolutamente, che l'allievo supera il maestro. Sì. Come ma in realtà questo, anche in realtà questo è l'obiettivo. Questo è l'obiettivo, vero? Devo preoccuparmi, quindi va bene, va benissimo, anzi largo ai giovani e ci mancherebbe altro. Detto questo, noi cominciamo parlando e facendo un salto nel tempo dopo questo periodo meraviglioso che vi ho appena citato così velocemente, ricordando anche pittori come Bartolomeo Passerotti, come il Domenichino, come Tebaldi, come Carlo Cignani. La primavera e la natura di Carlo Cignani è una roba veramente da cadere a spalle indietro. Facendo un salto nel tempo arriviamo a fine 800, inizio 900. Beh, il periodo ha dei chiari oscuri nell'intramezzo per quanto riguarda la storia felsinea, appunto perché le avanguardie iniziano a prendere piede. Bologna ha un'altra realtà pittorica, importante allo stesso modo, più legata all'estetica, più legata al colore, più legata alla forma, se vogliamo non proprio protagonista di rivoluzioni, ma assolutamente importante per quanto riguarda la ripresa del vero e della storicità. Tutto ciò però viene riportato in maniera incisiva e fondamentale, pensate un po', grazie a un'istituzione. Ovvero il Collegio Venturoli, esatto, che è stato costruito per volontà dell'architetto Angelo Venturoli intorno appunto al 1820-21, perché lui appunto nel suo testamento ha lasciato il compito a tre testimoni, sì, esatto, amministratori di erigere questo istituto, che doveva servire come scuola non soltanto artistica, quindi dove si insegnava appunto pittura, scultura e così via, ma anche proprio come un liceo, quindi si insegnavano anche le materie scientifiche, ma anche le lingue come il latino, il greco, il francese e l'inglese. Ma la cosa più importante da evidenziare per quanto riguarda questo collegio è il fatto che era stato costruito per dare la possibilità a studenti che avevano una grande predisposizione all'arte, ma che a causa del loro stato sociale non potevano permettersi di studiare, quindi offriva vitto, alloggio e insegnamenti gratuiti, cioè con borse di studio. Questa è una cosa bellissima, ed è stato costruito in via 100-300, che anche ancora oggi, se non sbaglio, è lì. Sì, esattamente, in zona, tra l'altro, pienamente in centro. Onore al merito Angelo Venturoli, un grande mecenate e un'attenzione per le persone più disagiate. Quindi ricercare l'arte andando oltre lo stato sociale e l'accademia, ma ritrovarlo anche nella quotidianità e dare a questi diamanti ancora da sgrezzare la possibilità di essere splendenti. Sì, quindi rivediamo sempre l'arte come strumento anche di integrazione, sì, socializzazione. Cioè, già dall'1800, stiamo ritornando indietro invece, un pochino, no? Sì, un pochino penso di sì. Tutto questo succede a Bologna. Un artista come Luigi Busi sarà protagonista di questi percorsi. Noi abbiamo intervistato Stella Ingino, curatrice dell'esposizione, e iniziamo a parlare con la curatrice del periodo bolognese di fine 800 e inizio 900, del mondo dell'arte. Che succede? Beh, tra 800 e 900 c'è un'attività abbastanza fiorente in ambito bolognese da un punto di vista artistico. C'è una grandissima quantità di artisti che appunto si muovono su indirizzi diversi, da un indirizzo più prettamente accademico all'evoluzione in forme più innovative. E Luigi Busi si inserisce appunto nell'ambito dell'arte bolognese lavorando più che altro a cavallo di un ventennio, e nello specifico egli nasce nel 1837, muore molto giovane all'età di soli 47 anni nel 1884, e la sua produzione oscilla da una prima parte dagli anni 60 con una più vicina comunque all'ambito della pittura di storia, per poi evolversi intorno agli anni 70 verso una pittura degli affetti, ottenendo grandissimo successo tanto negli anni 60 quanto negli anni 70, dove raggiungerà l'apice nel 1872 quando viene nominato Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia. Lui è un artista del Collegio Venturoli. Certamente, si forma al Collegio Venturoli e in mostra, infatti, saranno esposte alcune opere che gli esegue proprio in quegli anni, e tra cui ad esempio il ritratto del conte Agostino Salina, che è l'opera che gli permette appunto di vincere la pensione Angelini e di partire poi successivamente per Roma. Infatti egli passa 4 anni a Roma, grazie appunto alla pensione Angelini, ed entra in contatto poi con quegli artisti progressisti come Morelli, Ussi e Altamura, che influenzeranno fortemente la sua produzione artistica successiva e contemporanea. Questi che ha citato possiamo definirli riferimenti artistici? Sì, gli forniscono una nuova visione dell'arte in una direzione più innovativa, in favore appunto di un ritorno di un'esaltazione appunto della pittura di storia, che in quegli anni era ovviamente, sono anni molto complessi per le vicende proprio storiche. Infatti appunto siamo nei decenni che riguardano proprio l'unità d'Italia, e c'è quindi un ritorno in auge della pittura di storia, che ritorna appunto con una certa solennità, e ovviamente con la pittura di storia ci sono tutta una serie di riferimenti alla condizione appunto italiana del momento, e appunto Altamura, Morelli e Ussi influenzano la sua arte, anche se poi successivamente gli si farà molto influenzare da Telemaco Signorini, che invece è un esponente, uno dei principali esponenti in ambito invece macchiaiolo, invece che viveva a Firenze, con cui egli poi intesse anche tutto un fitto scambio di lettere che per la prima volta vengono pubblicate sul catalogo della mostra. Thank you. sbloccato qualche nota in più tornando in diretta al pianoforte di Herbie Hancock, giovanissimo in questo disco, al fianco di Wayne Shorter. L'eleganza del vero, la bellezza, l'estetica, l'importanza del colore, dell'immagine, della 14ª esposizione, Palazzo da Cursi o Sala d'Ercole, protagonista Luigi Busi. Ma stiamo parlando di un'estetica, di una bellezza, e quindi permettetemi una divagazione. I miei più cari e sinceri auguri all'amica Maris, già voce di Giuda alle Brande per l'apertura delle nostre dirette e grande amica di Radio Città Fujiko. Auguri! Vabbè, ci vuole un po' di attenzione anche per le ascoltatrici. Sì. Lei è sempre molto elegante, sempre molto. Noi ci teniamo a voi, lo sapete. E quindi bisogna anche saper interrompere ogni tanto per fare qualche divagazione. Del resto l'eleganza è il protagonista in questa prima parte, e proseguiamo dopo la panoramica, grazie a Stella Ingino, sul periodo e soprattutto sulle influenze. Influenze che vedono protagonisti, secondo me, non solamente per Luigi Busi, ma in generale per Bologna, fine 800, inizio 900, immancabilmente. La vicinanza con Firenze, quindi macchiaioli, allo stesso tempo, visto il periodo, la pittura storica. Sì, infatti la pittura storica, diciamo che era un tipo, un genere di pittura che prevedeva il fatto di dipingere appunto avvenimenti storici, era più una pittura narrativa, viene chiamata anche, no? Ovviamente in quel periodo storico in cui siamo appunto nella decina dell'Unità d'Italia, questa pittura storica ritorna ad avere un'estrema importanza, anche se in realtà Luigi Busi poi cercherà di superare la pittura storica, cercando di essere un po' più innovatore e avvicinarsi più al verismo, al realismo, no? Certo, infatti riprende scene quotidiane per quanto riguarda la borghesia, le scene di vita di grandi famiglie. La famiglia spesso è protagonista. Sì, sì, sì, sì, sì. Addirittura c'è un quadro, conseguenze di un matrimonio consumato in comune, e quindi, anzi, consumato, sembra così, consumato, sembra ci sia stato l'atto, no, non è quello attuato, svolto, compiuto, ecco, e ci sono questi due sposi che litigano. Sì. Tra l'altro questa cosa di rappresentare appunto famiglie e tutto, esatto, lo riprende anche da Telemaco Signorini, che anche se il suo principale protagonista, diciamo, delle sue opere era il paesaggio, c'è stato un periodo in cui invece si è avvicinato tantissimo, questo Telemaco, a dipingere appunto avvenimenti sociali, quindi operai, famiglie, sì, quindi questo lo riprende tantissimo da lui, che ovviamente ha avuto un'influenza molto forte nei confronti di Luigi. È un grandissimo artista, sì. Telemaco Signorini, tra i macchiaioli di Svetta appunto. Stella Ingino, curatrice di questa esposizione, 14ª edizione in Sala d'Ercole, in Palazzo da Cursio, e due chiacchiere sull'artista. Abbiamo parlato di correnti che non sono esattamente anticipi di avanguardie come l'epoca dettava. Secondo me non esattamente un rivoluzionario come lo si intende in maniera accademica per quanto riguarda quel periodo, però magari con qualche originalità in più. Facciamone un piccolo identikit in questa seconda parte di intervista. E quindi non possiamo definirlo un innovatore, un grande talento, ma un grande interprete. Sì, però comunque egli si distingue, infatti ad un'esposizione viene infatti notato per questo suo carattere comunque particolarmente ribelle, soprattutto agli inizio, quando sperimenta, comunque è affascinato dalle novità, non è che si inserisce nel solco della tradizione subendola, ma egli guarda agli innovatori e appunto sceglie sempre questi percorsi più innovativi, ed è per questo che è così interessante, perché poi li interpreta nella sua maniera ed è abilissimo. Infatti all'epoca tutti li riconoscevano di essere un grandissimo maestro dell'uso del colore, e lo si può notare anche guardando le opere che saranno esposte in mostra, che c'è un'abilità incredibile nella realizzazione delle sue opere. Certo, quindi entriamo in mostra via un percorso. Certo, è un percorso cronologico che va dalle prime opere appunto eseguite durante la formazione al Collegio Artistico Venturoli, e successivamente appunto abbiamo alcuni suoi capolavori come l'opera del Torquato Tasso, il Cardinale Cinzialdo Brandini, gentilmente concesso in prestito dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna, passando poi per tutta una serie di altre opere comunque gentilmente concesse, ad esempio dall'istituzione Bologna Musei, dalla Fondazione Cassa di Risparmio, dalla Biennale, e queste opere appunto ci permettono di costruire questo percorso che va da una pittura più legata al tema storico verso poi alla svolta degli anni 70, che è invece più una pittura degli affetti, quindi egli cambia registro e abbiamo invece tutta una pittura di interni borghesi, di madri con i pargoli, quindi un'inversione di tendenza straordinaria. Probabilmente anche l'aspetto che non troviamo, o almeno che io non sono riuscito a leggere come innovatore, purtroppo è dovuto anche alla prematura scomparsa, è morto molto giovane lui. Sì, purtroppo la prematura scomparsa all'età di soli 47 anni a causa di una malattia mentale che lo costringe a letto, lo porta appunto a scomparire prematuramente proprio in quel periodo, cioè egli già intorno agli anni 70 inizia ad avere i primi grandi riconoscimenti, come ho detto prima appunto la corona, il titolo di cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia, ma viene anche nominato socio onorario di diverse accademie, da quella di Brera, quella di Bologna, quella di Perugia, quindi una carriera che poteva crescere ancora di più e purtroppo viene stroncata da questa morte improvvisa, e quindi chissà quali altri capolavori avrebbe potuto donarci. La mostra ufficialmente inaugura sabato. Fino a quando sarà in esposizione, Carlotta? Credo fino ad aprile. Fino ad aprile, quindi abbiamo possibilità di visionare. Perché sottolineo sempre 14ª edizione, perché da quando ho aperto la rubrica in mostra, ormai sono già 6 anni, All'inizio della stagione si presenta sempre questo artista bolognese tra 800 e 900, che è un periodo dove ha molte luci ed ombra la carriera felsinia e soprattutto la storia, per meglio dire, la storia dell'arte felsinia. Quindi ricercare in maniera originale questi nomi che non hanno trovato uno spazio nel podio, nell'empireo, ma che secondo me non hanno nulla da invidiare ai grandissimi, è un motivo di vanto per l'Associazione delle Adi Bolognese per le Arti, insomma, e quindi onore al merito per questi percorsi. Abbiamo presentato in passato Mario De Maria, che ha una aveva una bellissima casa alla Giudecca a Venezia, la casa dei Tre Oci. Gli servivano molte luci per avere la possibilità di esprimersi artisticamente, quindi nella sua casa applica tre fori enormi, tre finestre, tre oblò, e appunto i veneziani la chiameranno la casa dei Tre Oci, la casa dei Tre Occhi. Vabbè, questo una piccola divagazione ulteriore. Giovanni Romagnoli, altro grande artista, Carlo Corsi, Protti, quindi anche in quel periodo, non solo nel 500 e nel 600, Bologna ha visto grandi artisti. Concludiamo quindi con, dopo aver visto il percorso all'interno di Sala d'Ercole, con quante opere? Più o meno una quarantina. Una quarantina, però ascoltiamo Stella. Sì, sì, Stella Ingino. Allora, le opere sono circa, di Luigi Busi, sono circa una sessantina, tra opere pittoriche e opere di grafica. A queste si affiancano anche altre opere di artisti a lui contemporanei, che hanno comunque, tra ad esempio i suoi allievi, come Raffaele Faccioli e Luigi Serra, a alcune opere di coloro che hanno un po' influenzato la sua pittura, come alcuni tre piccoli quadretti di Telemaco Signorini, ai suoi contemporanei come Orfeo Orfei, Luigi Bertelli e Tito Azzolini. La mostra è in esposizione fino al? La mostra è aperta sino al 18 marzo a Palazzo D'Accurcio in Sala Ercole al primo piano, ed è aperta dal martedì al venerdì, alla domenica dalle 10 alle 18.30, ad eccezione del venerdì, che è aperta solo il pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Vogliamo citare un'opera? Beh, come ho detto prima, l'opera che io prediligo è il Torquato Tasso, il cardinale Cinzia Aldobrandini, che ci concede appunto la Pinacoteca Nazionale di Bologna, che è anche una delle opere forse più note dell'artista, che vale la pena di vedere dal vivo perché è straordinaria. Grazie infinite per la partecipazione, per Stella Ingino alla rubrica In Mostra, e appuntamento a un altro incontro e a un'altra esposizione. Grazie Ingino, buona giornata. Grazie mille, buona giornata a tutti. Carlotta Assunta, senza passare dal via ufficialmente, rubrica In Mostra con William Piana, Carlotta Canarese, i più precisi. Beh, siamo un po' naif noi, se vogliamo. Ma sì, quindi... ma no, però abbiamo smesso di poco. E poi, per quanto riguarda il primo errore, non è proprio uno sbaglio. No, in realtà le opere sue sono 40, più altre un'altra ventina. Ventina che sono opere grafiche e di altri. Sì, artisti. Tra l'altro ci sono anche le lettere con, esatto, cui lui, cioè, che si scambiava con Telemaco. Sì, esattamente. E poi vabbè, abbiamo sbagliato poi di 12 giorni infatti non è poi così la chiusura, capiteci, sono comunque le 8:30, quindi tardissimo. Carlotta, è tardi, io ho già fame, ho già voglia di pranzare, tardissimo. Ma dai, tu perché sei mattiniere, io ho un po' di problemi ancora, però ci sto riuscendo, dai. Te l'ho imposto. Noi ci sentiamo tra pochissimo, la seconda parte della nostra rubrica ci porta invece alla presentazione di una kermesse importantissima, una cartella stampa che praticamente è un volume. Sì, un libro. È un libro, quindi gli appuntamenti sono tanti, vi daremo i riferimenti, faremo due chiacchiere anche con Lorenzo Balbi, direttore artistico di Art City e anche direttore per il Museo Mambo di Bologna, che sarà coprotagonista di questa importante rassegna. Ringrazio Carlotta per le ottime interviste, tra poco le ascolteremo, adesso un po' di musica e voi restate in frequenza sui 103.1. Volevo solo ricordare che la colonna sonora della mezz'ora precedente, incentrata sull'art bop e la Blue Note, appunto per l'estetica e la leggibilità del suono. Dal passato al presente, fine 800, inizio 900, fino al 2018, sempre Bologna protagonista per una, anzi due rassegne. Carlotta, di che si tratta? Sì, ieri c'è stata la conferenza stampa che si è tenuta appunto sempre a Palazzo d'Accurzio riguardo Art City e Arte Fiera. Wow, questa è una veramente Bologna diventerà cornice di una serie di esposizioni, ci perdiamo in mezzo all'arte. Esattamente, la direzione artistica di Art City quest'anno è stata affidata a Lorenzo Balbi, che è anche il direttore artistico di Mambo, dove in questo momento tra l'altro si sta tenendo Revoluzia, esatto, la mostra sulle avanguardie russe. E stavamo parlando appunto del Collegio Venturoli poco fa. Sì. A proposito, al Collegio Venturoli l'artista e coreografa Annalie Erdmann presenta Animal Companion and the Telepathic Elegance, scusate sempre la mia super pronuncia inglese, una performance che appunto invita i partecipanti ad espandere il proprio repertorio relazionale, perché apprendono e applicano i principi che governano e informano i rapporti tra animali appartenenti a specie diverse. Ah, ma hai lasciato è senza una performance, parole. Sì. Ho creato il buco radiofonico. E questo è uno dei 10 eventi che costituiranno appunto questo, il Festival di Art City, insieme ad un progetto speciale il cui protagonista è l'artista russo Vadim Zakharov. Bellissimo. Non riesco proprio a dire i nomi in russi. Però ho capito. È che a me riescono perfettamente. Esatto. E questo sempre in linea appunto con la mostra Revoluzia, come l'hanno chiamato ieri il direttore artistico appunto del Mambo e il sindaco, un inverno russo, perché tutto all'insegna appunto della Russia. Comunque sì, praticamente di questo festival importanti sono questo progetto speciale di questo artista russo e questi 10 eventi che sono stati fatti da 10 artisti diversi e soprattutto sono in 10 luoghi esatti scelti apposta per questi eventi. Però ovviamente il programma completo lo potete trovare su internet, comunque il festival dal 2 al 4 febbraio. E Bologna sarà una cornice incredibilmente ospitale per questi artisti e soprattutto il modo di ricambiare di questi artisti sarà rivalutare e riportare al centro dell'attenzione quello che nella nostra quotidianità troviamo e vediamo, ma che magari non viviamo con la necessaria attenzione. Sì, tra l'altro anche riqualificare magari anche quei territori che sono un po' in stato di abbandono, sì, no? Lasciati andare. Esatto, come la zona universitaria, che già da un po' stanno cercando di riqualificarla tramite eventi e iniziative. Alcuni punti sono assolutamente da riqualificare dal punto di vista artistico e culturale perché sono bellissimi. Sì. Non buttiamo via un grande patrimonio, quindi ben vengano queste manifestazioni. Ascoltiamo l'intervista a Lorenzo Balbi. Sì. Vai. A quale edizione siamo arrivati e qual è la novità rispetto alle edizioni precedenti? Siamo alla sesta edizione di Art City, sono molto felice di essere il direttore artistico per questa occasione. La nostra idea è stata quella di dare un format fisso a questa edizione, possibilmente replicabile nelle prossime, di 10 eventi monografici in giro per la città, più un grande evento speciale in cui abbiamo pensato di invitare un artista internazionale che è Vadim Zakharov e puntare sulla comunicazione di un grande artista che decide di venire a Bologna, di dedicare a Bologna una sua performance e di farlo in un luogo simbolo che è quello dell'Ex Gam, che è anche il filo conduttore tra la fiera e la città. In questo caso si tratta di una performance che lui ha realizzato una sola volta alla Whitechapel Gallery di Londra e che viene completamente ripensata per gli spazi di Bologna e si inserisce perfettamente in quest'idea di inverno russo e di attenzione all'arte russa, che sì è l'attenzione dell'avanguardia prima novecentesca con la mostra Revoluzia, ma che noi come area moderna e contemporanea e come Mambo vogliamo aggiornare e quindi lo facciamo con la mostra It's Okay to Change Your Mind a Villa delle Rose e con questa performance che con gli occhi del contemporaneo rilegge i fatti storici avvenuti tra il 1904 e il 1917. Quali sono gli altri luoghi scelti? Sono moltissimi, possiamo riassumere dicendo che ci sono dei distretti sui quali abbiamo puntato in modo più diretto, che sono appunto quelli della fiera con l'Ex Gam e con il padiglione dell'Esprit Nouveau, che ospiterà una mostra dell'artista serba Katarina Zieler, e poi c'è un altro distretto in centro città che è quello della zona universitaria, quindi via Zamboni, dove ci sarà l'installazione a cielo aperto di Home Movies più Giuseppe Di Mattia, del Museo della Specola con la visita partecipata di Alessandra Messali, e della Fondazione del Monte Palazzo Magnani con la scultura installazione percorribile dal pubblico di Luca Pozzi. In più altri luoghi saranno in centro città, sarà anche un'occasione per vivere il centro città con occhi diversi e passare quindi da luoghi fortemente di passaggio come la Cappella Tremlett in Palazzo Renzo, proprio in Piazza Maggiore, fino a scoprire dei luoghi insoliti come il Salone della Banca di Bologna di Palazzo De Toschi. Allora, nel mare magnum di questi appuntamenti segnaliamo, curato da Venturi Arte, Venturi Art and Prints per la White Night dedicata all'arte a Bologna. Quindi troviamo in mostra le opere di scultori come Sergio Cappellini, come Mauro Mazzali, come Carlo Santachiara, come Simona Ragazzi. Insomma, sezione di sculture in bronzo di artisti internazionali ed emergenti. 3-4 febbraio 2018 dalle ore 10 alle ore 20. Appunto la pagina Facebook, il sito internet per avere comodamente questa grande rassegna a vostra disposizione. Sì, ricordiamo che comunque gli eventi, la maggior parte, sono anche a ingresso gratuito, quindi abbastanza accessibili per tutti. Certo, e poi come concludiamo? Qual è la domanda che di solito si fa quando ci sono qual tante? È il filo conduttore? C'è un filo conduttore tra questi 10 progetti? Il filo conduttore è quello che tutti i progetti che sono stati selezionati sono progetti che rivivono e rileggono in qualche modo il luogo in cui sono stati pensati. Sono progetti cosiddetti site specific, che gli artisti hanno concepito solo ed esclusivamente per quel luogo, quindi mettendosi in relazione specifica con Bologna, con una progettualità concepita apposta. Quello che unisce tutti i progetti è questo. Per il resto, siccome questo è un progetto che vuole avvicinare il pubblico all'arte contemporanea, l'idea era quella anche di offrire una poliedricità e quindi non limitarsi a un tema o un settore, un medium, ma lasciare il più aperto possibile per dare al pubblico generale quest'idea di varietà. Si parlava anche di un evento serale. Sì, la conclusione ideale di tutta questa attenzione, questo sforzo che tutti dovremmo fare per vivere la settimana dell'arte contemporanea, volevamo dare un evento finale, conclusivo, celebrativo di tutto questo interesse, ed è stata l'idea che è alla base della grande festa che abbiamo organizzato al Mambo per sabato 3 febbraio dalle 9 di sera a notte fonda, in cui tutto il pubblico è invitato appunto a festeggiare la settimana dell'arte contemporanea e a scoprire la programmazione del Mambo 2018, che non abbiamo ancora comunicato e che sarà resa accessibile al pubblico e divulgata al pubblico in occasione della festa. Avremo un DJ di Manchester, Justin Robertson, che viene apposta per mettere musica in questa festa, e tutto il tema sarà proprio quello: il Mambo apre le proprie porte, il Mambo si mette in discussione, abbiamo bisogno di supporto, quindi tifate per il Mambo e fate parte della nostra squadra. Grazie mille. Grazie a voi. Ce la facciamo a Bologna, Carlotta? Non ci riusciamo. Noi dobbiamo finire la kermesse in discoteca. Sì. Una festa, ci vuole il DJ da Manchester. Noi non ce la facciamo avvicinare le persone, magari abbassando un pochettino i prezzi, che già comunque l'attenzione c'è, per carità, ci mancherebbe. Però una divulgazione magari più specifica, con un certo tipo di specificità, di attenzione, e non solo per il prezzo, per il contenuto. No, noi andiamo in discoteca, ma va bene. Ma sono io, come che si sono dice vecchio. A Bologna, vogliamo tutti fare ballare. Lotta, no? Vogliamo far balotta, assolutamente. Noi ringraziamo Lorenzo Balbi, sono io che sono troppo vecchio probabilmente, quindi ho bisogno dell'aiuto di voi giovani, e ci siete, avete risposto presente, ringraziando Erika Verdecchia per il teatro, Carlotta Calarese per l'arte, insieme alla Rivincita delle Bionde con Valeria Sacco per Jazz Live domani dalle 11.30 alle 12.30 con uno speciale sulle grandi voci del jazz, e anche lei che ritroveremo nelle prossime puntate. Sì, come piace chiamarmi ad Erika, come quindi da social addict. Ricordo che potete seguire le pagine Facebook e Instagram del Breakfast Club, della Rivincita delle Bionde, di Radio Città Fucico e così più via. Più ne ha più di Instagram. A proposito di rassegne, la fiera delle novità di Las Vegas sarà presente e anticipata dalle nostre voci di Edipeo, Enciclopedico, Roberto Raspadori e Piero Di Domenico. Insomma, noi a Bologna, come ho già detto, se non abbiamo la discoteca, la pericena, il cocktail al tortellino, non siamo contenti. No. E quindi mettiamo assieme tutte queste novità, augurandoci ovviamente che sia una grande kermesse, perché la nostra città meravigliosa, bellissima, ha assolutamente bisogno di cose vicino all'arte, visto che il contenuto e la cornice non manca. Noi domani andiamo in scena. Sì. Con Erika Verdecchia. È la vigilia della giornata della memoria. Avremo due spettacoli, appunto, legati a questa realtà. Restate con noi per la rubrica Calza al Sipario sui 103.1. Tra poco, rassegna stampa all'interno di Radio Zanardi, a seguire Radio Bullet dalle 10.30 alle 12.30. Angela Zocco e Andrea Gozza, This is a Rock and Roll Radio. Quindi noi salutiamo. Carlo, io ti ringrazio tantissimo. Io ringrazio te per avermi ospitato nuovamente. Pensa, che fortuna, ti ho fatto una levataccia. Ancora. Vabbè, ma prima o poi. Bisogna alzarsi, non si scappa, assolutamente. Domani, quindi, anche voi alle 7.30 puntuali sul 103.1 per una prima colazione condivisa, diversamente normale, ma quanto mai gustosa. Tutte e a tutti una buona giornata da Carlotta Calarese e William Piana. Ciao.